Lezione 10. Due Re, capitolo 10, versetto 6. Uvene Hamelech Shivim Ish et Gedole Ha'ir Megadelim Otam. Salmo 145, versetto 8. Hanun Werachum Adonai Erech Appaim Ugedol Chased. Genesi, capitolo 12, versetto 11. Vahi ka'asher hikriv lavo mitzraima, vayomer el sarai ishto. Hinnena yadatti ki isha yefat mar'e at. Deuteronomio, capitolo 1, versetto 24. Vaifnu vaya'alu hahara, vayavou ad nahal eshkol, vayraggelu otah. Deuteronomio, capitolo 1, versetto 40. Ve'atem penu lachem useu amidbara, derech yam suf. Deuteronomio, capitolo 29, versetto 22. Gofrit huamelach, serefa chol arzah, lo tizara velo tizmiach, velo yaale vah kol esev. Uno Re, capitolo 18, versetto 42. Vayaale Achav le'echol ve'lishtot, ve'elihau ala el Rosh Akarmel, vaygahar arza, vayasem panav ben birkav.